chiaramente bisogna sempre stare molto attenti, però gioca, ci sono altri pitbull che il padrone l'ha insegnato a difendersi, a essere cattivo, e ti muscigheggia, ti ammazza, ti nibiglia l'organo, l'avrasto e ti ammazza, hai capito? Ma è femmina quello, Claudio? No, no, tutte e due maschi sono, infatti la mia cosa, il primo periodo io, quando lo vedevo qua nel giardinetto comunale, non entravo dentro, no, vieni, tanto non fa niente, no, no, no, però vedevo che non si abbagliavano, sì, quello da dentro la rete, Filippo fuori, si annusavano e non succedeva niente, e tu, buh. Eppure ci proviamo, però ho detto, tieni la guinzaglio, non si sa mai, almeno abbiamo la prontezza di staccarli subito. Siamo entrato, qui c'era la guinzaglio, sono venuto piano piano, si annusavano, facevano, e poi iniziavano a giocare, sai, si ingrigliavano nei muri i guinzagli. Dal giorno li abbiamo mollati, e giocano tantissimo, sono due maschi. Magari si sono simpatizzati, non lo so, vanno anche a piccolo, loro vanno molto a piccolo, capito? Vuol dire, ce n'è uno, quello che l'ha musicato a Taglio, perché il giorno che mi scappa, mi va addosso, perché magari li se ne prende, però ogni volta che lo vede, li si addusca il pelo, comincia a diventare cattivo a far vedere i vini. Io al padrone gliel'ho detto, tanto va rubito di bidato per la maneccia del coso della pittura, non porta mai a guinzaglio, il giorno che gli scappa, come ha fatto con la musica Tantaglio, lo denunciano, poi se la piglia la denuncia, perché vabbè, questo qui è anche recidivo, si piglia una denuncia per un buone tre fusi. No, va bene, quel cane intanto per legge il pitbull e altre razze dei cani devono uscire con la museruola, capito? Quello, il pitbull, il rottweiler, il coso, il doberman, cioè tutti questi tipi di cani che devono uscire con la museruola per legge. Poi chiaramente ti ripeto, questa è un'eccezione, perché ce n'è un altro che abita al sud nella casa popolare, questo abita proprio attaccato all'edicola, cioè questo pitbull bianco e nero bellissimo veramente, e ce n'è un altro che esce con la musiola perché è cattivo, capito? Va bene raga, dai, io devo preparare una cosettina ai fornelli, quindi lascio la radio accesa, mi fa piacere ascoltarvi, se coincide ci sentiamo dopo, ok? Vai Anto. Capo, fai pecca, non c'è problema. Sadi, non mi ha musicato, che so cane che mi stava per musicare in Piazza d'Italia. Ma già l'ho conosciuto, carriera, già lo conosco, ha detto, ho te passato, a te pure il cane, no, che era il muro arrecciato, a che va via un pitbull dentro casa, e ha morto la mamma, ha morto, cioè si era la sbranata in via Diaz, ti dà mente il fatto? Sì, ma lo ricordo io, Anto, che hanno trovato la madre tutta mangiata dal cane. Me l'ha giudito in faccia, ma non ti è passato a terra, Giudito, ancora un cigane sei in giro. Ma a quanto pare forse la madre era morta, il cane era rimasto solo e quindi per mangiare, per campare si è mangiato la madre. L'ungare Mattesi si era, ma quando andava a portare la bombola, un pingo innanzitutto, e poi ti linzava il cane, capito? Ti iniziava a musicare pure, ma quella lì mi pare che abbia morto un marito, ecco, il di Marcello mi pare. Chi, la mamma? Sì, la mamma lì, se era mezzo mancante. Poi e di dove sono questi? Lì abitavano, in via Diaz abitavano sempre, non lo so di dove sono esattamente, ma c'era un qualcosa del genere, mi pare, già si è ammeritato pure un poco. Ma già ve l'ha giudito, ma non ti ha mentito più, cosa vuoi dire? Voglio dire tante cose, il cane tienitelo, non andare a rompere le scatole ad altre persone, ha detto che non ti ha mentito più quello che ha combinato, ma ha giudito, ancora non ti è passata la mania. Ed è pura, perché viene, abitano che vicino a bisogno mio, ma non hanno fatto niente, cioè non è responsabile di aver lasciato il cane, così pericoloso, eccetera, eccetera. Ancora con i cani in giro, andare a rompere le scatole alla gente. resistori a me. Sì, basta chiamarli i vigili urbani, se vogliono farlo, molto più. Chiami i vigili urbani, non so questo all'istante. È sempre la stessa storia, secondo me non va manco vaccino, è tutto rognoso, poverino. Cioè, ma pure lui a insegnare una buona educazione, non so, perlomeno te lo tiene a guinzaglio, non lo tiene così. Cioè, perlomeno te lo tiene a guinzaglio, non si vanta di queste cose. I cani bisogna tenere sempre a guinzaglio, perché i cani sono imprevedibili, come hai detto. Bisogna per gestirli bisogna tenerli sempre a guinzaglio, perché se stanno a morsicare tu lo tiri, invece se non c'è a guinzaglio stanno a morsicare tu ce la fai a prenderlo e ti ricrenano. Io già lo so già, ma no, non si fa così, cioè sono troppo imprevedibili, non sono, certi tagli di cane non l'avrei lasciato con bambini piccoli, ma manco per sogno. Adesso un figlio di Tora, cosa è successo? Ehi, sì, l'aveva musicato, cosa c'era il... che non ti vai a c'aveva? Cioè, ma è roba da macchia, cioè non sono cose da tenere vicino a bambini, no? Sono cose da tenere un po' distanti, perché sono imprevedibili, sono. Poi quelle razze lì, avevano detto che le eliminavano, no? Che era proibito farli procreare. Li sterilizzavano tutti quelli che c'erano e poi non potevano più ripopolarle quelle razze, perché sono razze pericolose. E poi invece non hanno battuta, hanno detto che non hanno battuta. Ma appunto, sono troppo pericolosi i cani, così. E c'è gente che c'ha l'incrocio dog argentino col pitbull, non c'è cazzo sommario. Io non so già. Tutte e due le razze sono cani molto cattivi. Immaginati, mischiandole le razze, poi a cosa diventi pure un diavolo. Ma non sono animali da far circolare, la verità, no. Non sono d'accordo, non sono assolutamente d'accordo. Il cane deve essere una compagnia, non deve essere un'arma, perché poi se diventa un'arma comincia a avere problemi, che c'è chi ti capisce, c'è chi ti denuncia e ti fa passare casino. Appunto, il casino è quando toccano i sangue, questo tipo di cane, è un casino, Vabbè, certo che sì. E poi sentono l'odore del sangue e diventano aggressivi. Sì, sì, ti si può girare in qualsiasi momento. Ma vai, è bravo, da lui ti sbrana. Chi è? Chi c'è? Ma faccio uno splatto. Boh, non sono. Che bagara. Ma tu come ti arrivo con questo apparecchio nuovo, là, diciamo, perché ce l'ho usato una volta solo da quando è arrivato, questo nuovo. Come ti sta arrivando? È con 3 watt e mezzo, 4 watt. 9,20, sì, no, picchi quasi 9,25. Già va bene. Augurio, questi sono belli come apparecchi. Sono bellissimi, vanno bene. Cava. Uia. Mi pare che attendo un po' caldo, Rugocio. E cosa tu? L'87. Facciamo la stufetta. Ah, non viene il stufa in obbligo. Già mi hai capito, la stufetta della palazzo. Ma che stufetta, buonasera. Buonasera, Franco. Come stavo arrivando lì? Sto uscendo con 2 watt, dai. Benissimo. Sì, 9,25 radio 5. E sto usando l'ala 48, perché l'altro disturba di tutto. Vabbè, quando risolvi quel problema, no, non c'è problema. Ora che arrivi benissimo, mi niente da dire. Sto usando l'apparecchio omologato, dai, una fortinuta. Quando tu c'è la buona antenna, anche quando usi l'apparecchio omologato ci sei dappertutto e non c'è bisogno, non c'è problema. E io perché non sto usando l'omologato adesso qua? Va benissimo, c'ho il microfono normale, apparecchio omologato e omologare. E dove l'hai buscato questo ala? No, ma sono di vicino a casa, ma là. Ha prestato usato, tanto che lo stavo usando e l'ho messo qua. E beh, ha disturba il televisore? No, questo no. Visto che c'è buona destra. Poi tu mi hai detto regolo l'antenna, sì, l'antenna puoi anche regolarla, però se ti disturba se l'apparecchio disturba, può disturbare anche quelli di fronte, capito? Un attimino. No, ma è impossibile perché sono un bel distante. È possibilissimo, ho disturbato io, te lo sto dicendo. Capo, ma comunque guarda che è forte qua, no. Non c'è nessun problema a me. Buonasera, adesso sì che arrivi fra, Ecco, buonasera a tutti. Buonasera, mio hermano. Ciao Benito, avanti. Io Antonio e Franco California, dai. C'era anche Claudio ma si è allontanato per andare in fornito. Cava cava. Vi ascolto tutti egregiamente bene, specialmente a te Benito, stai scendo benissimo. Oh, ma io non sto scendo. Buonasera, ciao a tutti. Ciao Tino. Buonasera a te, e a voglia. Sono entrato per dirgli a Franco, ciao Benito. Per dirgli a Franco che ora l'ho ascoltato, porca miseria. Magari stava parlando qualcuno e vi siete sovrappopolati. Cappa, ciao Tino, ben sentito, dai. Ciao Beni, abbassa appena appena, oppure non urlare perché sennò va il rimbombo. Ehi, diciamo che la forza invece la loro più alta. Già va bene, va bene. Questo è 140, Benito. Che vuol dire al mio 140? Esce un bel bene. Penso di sì, io l'ho venuto a Marco Conner, con Marco Conner l'ho venuto a te. No. Ha avuto un unico proprietario, il suo corno sono stati non è questo, quando l'avevo già dato. Pensavo fosse questo. Bene, dammi un controllo che sto usando l'HR 5005, nuovo 15 radio super 5. Andare. E tu già hai notato qualche cambiamento anche di radio, soprattutto lascia perdere, non è il Kimball questo, questo è l'Intec. Va bene, sì, già lo sai che cambiamento rotto, tu sei 9.30, no, che la radio è 5, va benissimo, io sto uscendo con 3.009 originale vergine dalla casa perché l'ho comprato da poco e niente, non è toccato, con microfono normale, non so come stia uscendo io, però stasera mi è venuto lo schivizio di usare apparecchio omologato. Sì, ti ho sentito, ero al PC, anche quando c'era Claudio, facendo un po' di ascolto, sì, ma il 3009 credo che sia una cosa del genere, tipo questo di Uyumi, non è che sono quasi un similare, dai, credo. Ma io c'ho, non c'ho quello di digitale, c'ho quello di Vabbè, no, io ho questo del digitale. Franco, sei rientrato? Sì, ciao. Io ti ascolto, la radio poc'anzi era più forte. Io ti sento basso di radio qua. Ehi, adesso bene va. Adesso va bene. Ma disturba lo stesso già, un casino, dai, riprendete, dai. Devo nemmeno anche sul coso. È rottura di coglione, scusate, ma non posso modulare. Saluto tutti, dai, domani controllo la centralina. Ciao. Abbassala, che già va bene. E poi cambia il cavo nel caso. Il cavo c'ha... ha messo le 10.58, mi pare, no? Sì, però già, non è il cavo dell'apparato che deve cambiare, è il cavo delle antenne TV. Vabbè, comunque, non consiglio, non usare nessun apparecchio, c'è un piccolo monogatto fatto su iBook, l'abbiamo provato l'altro giorno in casa sua, il primo, secondo, il terzo canale, disturba tutti e tre. Antonio, eh? Ehi Ati, sicuramente è quel cavolo di coso che ci prende tutte le spurie, basta abbassaglielo un po', non fate più nulla. Buonasera Benito! Ciao Antonio Brombolo, guardate di segnale, sì, anche la testa, che ho cambiato l'antenna, si è migliorato da voi. Hai cambiato la giornata notte, cosa sei buono? Ciao Tino. E qua sì, quasi 9. Ma questo è un digitale, sai che guardo altro, eh? A picchi negativi. Ho messo. È un bel picchi negativi, guardate, io vai da 9 a 7. Vai vedi. Guarda, 1, 2, 3, 3, va. Là. Via, anche da me. Lo stesso segnale di che ti ha detto Claudio. La stazione aria a posto, sì. I nomi non mi pare. Aspetta, sono posto perché accordato, sono accordato. Abbassa la potenza o vedi, facci sia quello. Hai un bel picchi negativi qua. Qui no. Aspetta che era freddo, non so se c'ho ragione, non ci ho pensato, che ci aveva portato bianca, ma... Santo, ma la radio seria, non ti accorgi che, cioè, l'ha detto anche Tino, qua col garage va da 9 a 8 scarso, torna indietro il segnale, anche quando fischia. Boh, se vuoi ti mando il video e te lo faccio vedere, cioè, per me sembra a posto. No, non è a posto. Vabbè, non mi devi mandare niente, stai dicendo così, da te non lo fa, da me lo fa, da te non lo fa, non so se lo fa anche da Gianni. Dai, continuate, riprenditi. Ma se mi posso, va. Prova, bene, prova, metti 20 watt e lascia stare, già vanno bene. Caffa, no, per me, cioè, non sto dicendo bugie, io faccio il video se... Io qua ce li avevo positivi, non negativi, non lo so il perché. Cioè, se non avrei problemi farlo vedere. Va bene a me, Claudio. Hola, me ne hai parlato, eh? Hola. Dixa, ma andate fuori. No, qua è positivo, va bene. Andate, vieni, e tu, da quelle parti? Sei andato un altro canale. Dove sono andato? Aspetta che ti cerco. Boh, ci sei già. Tu, secondo me è un po' da rivedere quella radio, quindi che non si sia starato il trimmerino del picco di modulazione. Guarda, Ocla, un attimino, anche tu sei in positivo, io. Hola, nel parlato, eh. Hola, Dixon. Io, no, tu è stabile e poi quando parli va appena avanti. Lui proprio sul parlato torna indietro, quando fischia torna ancora di più indietro. Non lo so, ma gliel'ho detto già la stamattina. Poi non vedo tutto questo incremento io. Cioè, arriva Santiago 5 con l'antenna... Oh, vedi, metti un'antenna piccola, che voglio vedere, se c'è picchi positivi con l'antenna piccola di Sant'Anna non si vede nulla, perché fai con l'antenna piccola Santiago 5, quella della macchina, con l'antenna grande Santiago 8 e mezzo, con quasi 9. Ma che antenna è? Cosa ne so più che antenna è? Ciao, la verità, io vedevo che qua le vedevo positive, non capisco come mai. Non lo so, tu, io sto usando il Galaxy, a me mi segna negativo, ma gli ho già detto anche stamattina, poi se c'è Tino che conferma col K, non c'è, io il K non ce l'ho, se no avrei controllato quello, comunque io vedo pochissimo incremento, cioè con l'antenna di macchina arriva a 5, con l'antenna esterna che ha detto lui arriva a 8 e mezzo, non arriva manco a 9. Diciamo che 8 e mezzo guardando bene, ma facciamo che sia 9. Poco mi pare, deve arrivare almeno 9.10, 9.15. Oh, qua arriva Santiago 7, arrivava. Vabbè, tra me e te c'è un po' di differenza, qua arriva quasi 9, però vedo poca differenza, capito? Cioè, da Santiago 5 con l'antenna di macchina, Santiago 9 con l'antenna esterna è poco. Deve arrivare almeno 9 più 10, 9 più 15 da dove è lui, perché io lo vedo. Deve avere almeno il segnale di Massimiliano, 9.15, 9.20. Non lo so perché. Vediamo ecco quanta altezza c'è. sono per dire lui. Eccomi qua, vediamo con questo. Con questo sì, 9:18, non picchia 9:20. Che c'è una trattoria. Un altro dovrebbe essere un po' più forte di segnare, però magari cambia di modulazione. Vediamo bene come ti vedo qua, vai. Qui non ci arriva 9:10, però non sta dando picchi di modulazione, cioè si è stabile. Secondo me dovresti, non so quanti batteri sta dando, però prendene 20 se lo appena acceso, poi già sarà da solo quello. No, non funziona così, non tiro. 140 tu appena lo accendi non gli devi dare 20. È paliscio, sta lavorando davanti al negativo. 140 tu quando l'accendi, se c'ha 5 watt deve modulare a 5 watt e lui va in avanti sino a quando si stabilizza. Se tu le dai subito la potenza appena lo accendi è per quello che sta andando in negativo, capito? Sì, ma 20 watt non sono né poco né molti, perché se il vento ti cordi è nella via di mezzo, non deve superare l'EC, giustamente, poi si stabilizza, però lui tende sempre a salire. Io sempre, quando ce l'avevo, sempre 20 watt, in partenza, anche da freddo. No, io mai l'ho usato così il 140, mai e poi mai. Io 140 lo faccio partire a 5 watt a freddo, 5 watt, lo lascio stare acceso e si stabilizza da solo. Quando poi parlo che arriva la temperatura, che c'è la ventola accesa, lo metto a 20 watt e non sale più, non si muove più anche io. Guarda, questo era spento, l'ho acceso adesso, ma a portante 15 anni, per dire la verità, e poi va in picchi modulazione. Lascia stare quello, Tino, il 440, il 450, il 430 sono tre conversioni, il 140 e il 180 sono due conversioni, quindi quando tu lo usi a caldo la potenza è stabile, quando tu la spegni la potenza è a zero. Non ha potenza, c'ha solo picchi di modulazione. Quello invece tu lo spegni a 20 watt, lo riaccendi e lo trovi sempre a 20 watt. È un altro tipo di macchina, non ha niente a che fare col 140 e col 180. Tranquillo, fatelo dire da me. Capito, Emily? Abbassa la potenza, quando è calda poi vedi che va bene. Io noto sempre picchi negativi, non so. E non è chitarra radio, perché Tino c'ha picchi positivi, Antonio c'ha picchi positivi, non so. Per me, ascolta, fai una prova, poi vi lascio tranquillamente parlare. Rimani qua sul 10, Tino. Metti l'altra antenna, metti quella che arrivi più basso, quella di macchina, che voglio vedere. Se c'hai picchi positivi con quella, vuol dire che se l'antenna si idratendi, va, che problema. No, cambiami l'antenna, voglio vedere una cosa. Cambia, se hai sempre picchi negativi, cambiami l'antenna. Tino, stai guardando? Sì, lo sto guardando solo io. Vai da 5 a 7. Ok, chi si antenna ha problemi voi. Confermi, Tino, hai controllato? Da me fai da 7 a 9:10, in positivo. Ci sei? Da me fa da 5, perché lui è più vicino, da 5 a 7. Da 5 a 7, in positivo. Con quella là è 8:30, quasi 9, scende a 8. A te arrampi. Piccola. Adesso con che antenna sì, adesso mi arrivi quasi 9:10 modulato. Salta antenna qual è bene, la grande o la piccola? E allora buttaci la grande, perché con la piccola arrivavi di più. Cazzo, vedi, cioè, ma arriva, ci può fare i denti. Con la grande arrivi 5 modulati 7, con la piccola arrivi quasi 9, ma di qua stiamo parlando? Allora, un problema io lo riscontro, il problema è che qua con la piccola non arrivi quasi nulla. Già abbiamo capito che te l'ha fatta, tu non hai capito allora. Quella che tu non senti è l'antenna grande, quella autocostruita come dice Benito, l'antenna grande. Tu lo senti con l'antenna piccola, come lo sentiamo noi. Allora, io allora che va l'antenna minore, io non intendo quella, cioè lo sento basso. Se mette quella grande, io lo sento. All'inizio con quella là, io lo sentivo. Torna VG, ha sbagliato lui. Adesso tu non lo stai sentendo perché con l'antenna grande, poco fa lo sentivi, con l'antenna piccola, ha sbagliato il commutatore lui. Allora non lo gioco. Sono una bomba le antenne, sono sempre negativo. Aspetta un attimo che voglio abbassare il vatio. Ho cambiato una cosa, voglio un po' qua. Appena, 9, praticamente sei sceso da 9.15 con picchi positivi a 18, come poco fa facevi a 18 a 20, adesso fai da 15 a 18. Caro Benito, lampada e tutto. Aspetta un attimo. Allora, guarda, io ho 5 watt, ma non arriva neanche a 20 watt modulati. 9.10, 9.15. Sì, provo a fare un'altra cosa, la metto a zero. Ora ho 10 watt modulati, guarda, 3 prova. 9, 5, 9 più 10. Ti puoi immaginare, metti tutto, io carica, tutto caricato. Hai capito bene dove sta il problema? Che quando tu usi l'antenna autocostruita, il segnale è più basso, quando usi invece l'antenna piccola il segnale è più alto, è al contrario. Gianni che c'ha il Galaxy ti confermerà. Allora, con l'antenna grande il segnale è quasi 9, però hai picchi negativi da Santiago 9 a Santiago 8, ok? L'antenna grande, quindi c'è qualche problema di fondo. Va bene, con l'antenna piccola, sì, da Santiago 5 con picchi positivi a Santiago 7, sono stato chiaro? Più chiaro di così penso che non si può. Adesso continua e falla la prova. Falla anche con Gianni che c'ha la radio uguale alla mia. Io così ti sento. Con l'antenna grande Santiago 9, scendi a Santiago 8, picchi negativi. Con l'antenna piccola Santiago 5, con picchi modulati a 7. Vai Gianni. Dai, fammi le prove, amici. Questa è la grande e questa è la piccola. Da 7 a 9, tu picchi negativi, non è veri? Prova bene. Ma da me sono positivi, da me va da 7 a 9. Aspetta, che ha cambiato ora dentro, ora è da 9 a 9, 10 in positivo, con l'antenna grande. Fammi vedere a me adesso, magari ci avevi lo spettrone messo male, qualcosa messo male, commutato male, prova quella grande. Hai visto? Adesso vai bene, adesso sì. Santiago 9, no, cioè non arrivi a 9, 8 e mezzo, modulati 9, ok? Io ti lo so a mezzo punto, però pochi ne hai picchi positivi. Mentre prima invece era al contrario, andavi indietro. Adesso ci siamo, quindi controlla bene qualche cavetto lì. Però la mia cosa principale, non so se Tino mi conferma, è che con l'antenna della macchina mi fai da 5 a 7, ok? Con l'antenna grande, non arrivi a 9 a casa mia, 8 e mezzo modulati 9, capito? Mi sembra un po' pochino l'incremento con un'antenna grande, mi devi arrivare molto più forte, anche da Gianni, non stai arrivando con un segnale enorme, capito? Da 7 a 9 è troppo poco, devi arrivare almeno 9 più 10 qua, o sbaglio Tino? No, vabbè, anche da me non ha incrementato granché, perché con la piccola arrivato a 7 con picchi positivi quasi a 8,5, e questo invece arriva a 9,10 quasi, 9,15 modulati, ma 9,10. Sì, poca roba bene, poi non so quanti fatti stiamo o meno, però non c'è questo grande incremento, ecco. Però toccanti eri negativo, adesso non so se hai toccato qualche cosa e ti ho confermato che sei in positivo, ma è poca roba, cioè se tu guardi o a me, a Gianni, a Claudio, quando noi lasciamo un po' di bianco nel parlato, tipo come sto facendo ora per dire, l'incremento della lancetta va a aumentare moltissimo, in confronto a te invece accendi un LED, io ho il 450 per farti capire, quindi vedo i picchi che sono leggeri, al contrario di Gianni e di Claudio che hanno lo smitter e lo vedono un pochino di più, però a me ne accendi un LED. Hai fatto un passaggio nuovamente negativo, non so, vabbè, comunque, vedi tu Beni, io noto poca differenza tra un'antenna piccola e un'antenna grande, che sia mezz'onda, 5 ottavi, un quarto d'onda, la meno fottuta, è sempre un'antenna superiore. Va bene, dai, io mi ritiro in bellezza, divertitevi, se ci siete a più tardi che devo andare ai fornelli, se no arrivi mio figliore con chi su Gaimano e non venuto a mangiare. Ciao ciao! Ciao ciao, avanti ti. Sì, c'è anche Antonio. E a K, ciao Claudio, ce la risentiamo una più tardi, una prossimina. Oh, per me i picchi sono positivi, per me, dico la verità perché io lo vedo. Però, cioè, segnale E7, con quella là io non lo sento, con l'altro, lo sento basso. Lo sento con l'altra antenna, però è strano, da quella zona dovrebbe aumentare parecchio, eh. Ah, alla fine non va neanche peggio, va. Beh, che cavolo hai messo con l'antenna? Aspettate che salutiamo, ciao Claudio, ciao, buona preparazione, dai Gianni. Io ho salutato già Claudio, quindi benito, va. Adesso è aumentato, quindi sei da 9 a 9,5 da me. E che capo hai messo? Ma l'R58, l'H155 o qualcosa hai messo? 213 così è già, 213 lo stesso è quello fino, vero? L'H155 ce l'ho io. Vabbè, 58 ormai è anche un po' superato, però. Io ho l'H155. Quello grigio, quello più a calza? No. Io c'ho il grigio, sì. Ma anche io. No, è il modello nero questo. Sì, ho preso anche io, anche quello lì. Adesso anche qualche altro. Anche un nero grigio è uguale, è identico, solo che un nero altro grigio è per questione di facciata, di colore di facciata. Io l'ho messo grigio perché la mia facciata è grigia. Ah, l'hai sostituito già. Ehi, è fatto bene. L'ho sostituito perché ho cambiato gli spezzoni, ne avevo fatto gli spezzoni di quelli e poi ho messo anche il capo già che c'ero, cosa facevo. Vabbè. Ah, meglio. Ciao Silvia! Ehi, ciao, buonasera a tutti! Ma tu arrivi tardi, ciao Silvia! Lo so, perché? Cosa rotendo sta là? No. Vai, vieni, vai! Ciao, vieni, buonasera, che a te! Perché arrivi tardi ti? Comunque saluto tutta la ruota, cosa c'era in ballo? No, facciamo le prove di antenna, quindi ci serviva qualche parere in più. Beh, una curiosità, quanto lo stai quella radio. Io utilizzavo la IRAC, però dipende anche dalla posizione da dove sto lavorando. E va bene. No, era giusto una mia curiosità, capito? Signore, devo fare una prova con te, però ci ho fatto l'ispezione dell'ampli. Eia, falla pure, vai, cosa ti serve, segnale? Io ho appena acceso, eh? Sì, aspetta che cambio radio però, eh. Bene, mi senti lì a ottava, o dove sei? Bravo, adesso mi faccio il fuoco, avanti già. Eia, Massimiliano, come ti sta arrivando il segnale? Buonasera, puttana. Già. Guarda, ho cambiato il campo, come ti sta arrivando? 9:15. Come al solito. Già, come al solito. Aspetta. Eccomi, vabbè, non è... Prova un pochino, adesso prova, massa ce l'ha, eh. Ora si è cambiato qualcosa, ma si viene. 9:30 pieno. Ma ieri non era così però, vero? Sì, mancava sempre quel filino, al 30, va. Adesso sei pieno. Aspetta. Vabbè, dovrebbe essere a posto, va. Sì, pieno proprio... Il lago ci va a finire proprio sul 30. Caspita, dai, allora già incrementato la cosina, perché il cavo era senza massa. Vabbè, ritorno con l'altra, grazie. Via. Sì, sono. Via, capa. No, Massimiliano, scendi di due. Vedi, già va bene. La voglia. Ciao a tutti, ho visto oggi tutto imbaffarato. E allora... Non sarà come quando c'è la braccia, però abbiamo arrossito lo stesso, dai. Abbiamo passato la giornata. Anto dove vedi a Platamona? Scappa a Platamona, a secondo pettine, mi sono andato in chivi. Ha giù posto lo forredo, cioè quel fornello, come si dice? La cuccinetta, mi hanno regalato una piastra, cioè ci hanno fatto dove sono andato e ci abbiamo cucinato il sassiccione, e stavo magnando, siamo arrangiati, là. Sì, ho visto la foto, va bene, no, perché c'era altra gente a Platamona, però ho visto il mare che era incazzato, ho pensato che c'era vento. E ma io mi sono composto, mi sono messo dove toccava di meno. Ma non era così tanto il vento, sì, Ma io ho visto una diretta di un'amica, sinceramente non era gettatissimo, però c'era un dirungo, vai. Sì, c'era un venticello. Io sono andato stamattina, mi ho fatto un giro, sono andato a Platamona, con Torres, eccetera. E niente, mi ha attaccato il baracchino, me ne sono andato a fare un giro, visto che c'era il sole. Era pieno di gente come d'estate. Immagino, oggi abbiamo approfittato a mangiare nel parco, qua dietro casa, nel parco, un pezzo di giardino fatto tipo fatto verde e quant'altro, abbiamo apparecchiato fuori, anziché mangiare dentro casa, e da io ci apparecchiamo, e ti dirò che ci stava bene. Sì, era una giornata primaverile, non c'era molto vento, al contrario di altre parti che mi hanno telefonato là fuori, dalla zona di Sant'Euro, ma ecco che c'era un vento allucinante. E allora, va bene, mi devo sentire due minuti che devo sentire un audio che mi hanno mandato, sono qua in Corrix, sono passato due mattine. Riprendi Massimiliano. Via, positivo. No, ma io sono rientrato adesso da Dagliero. Se c'era la gente, era una cosa spaventosa. Come del fatto? Non c'è di più. C'era il mare, era uno spettacolo, pulito completamente, proprio senza vento, proprio bello. Poi sono rientrato, ho fatto la vittoria da Porto Torres, lì in Platamona, e il mare era incazzato, c'era il vento o già. Magari si è alzato stasera, perché lì lo fa sempre, la sera si alza il vento. Sì, ma anche stamattina a Platamona parcheggiare, era pieno di macchine, tutta la rotonda dove non si può parcheggiare, tutte le macchine in fila, pieno, pieno, in doppia fila ce n'erano, a mare la stessa cosa, tutto pieno di gente con carrozzine, con i cani, anche la gente adesso si è stufata di stare in casa, c'è poco da fare, come vedo una bella giornata avanti come ti dirighetti. Ieri gioco, però non è così, funziona. Adesso domani si decide, perché forse da lunedì, da giovedì siamo di nuovo in arancione. Lo so, non è tanto che cambia il semaforo. Lo gioco. KK, vai benito. Benito, non mi sente, avanti anche tu. K, se no, visto che sei parato, passavi un attimino, la ecco, arrivava un po' con le garre e ci divertivamo. Ma ascolta tu, io sono sceso, prima sono sceso al Ghero, stamattina non sono uscito, sono sceso al Ghero, sono state buone le 4, 4 e un quarto, da quell'ora lì, eppure risalendo sono salito da Porto Torres, ho fatto il litoraneo. Break, eh? Avanti il break. Sì, ok, buonasera, questo è l'orario qua dalla collina, niente, mi sembra una controllina di segnale qua di... Ok, perfetto, avanti Massimiliano, con la buonasera a sentirci con due quotidiani, cambio il popolino se a te cambio la buonasera. Ciao Francesco, buonasera anche a te, vai. Santiago Lupo, Radio 5, dalla mia station, avanti già. Santiago Lupo, Radio 5, Francesco, buonasera. Anche qua sei quasi 9, Perché qua sono tornato del suo nome, purtroppo non sa che ho adattato, o che vi hanno adattato qua a questa parecchio, che pare che va bene, ok, purtroppo che se l'ho regolato io, però faccio da tutto. Ok, va bene, vi ringrazio, ok, perfetto. Va bene, riprendi Massimiliano. Positivo, dai, volevo vedere se c'era di nuovo Benito, che l'ho rilanciato, forse si è allontanato. Benito, sì. Stavo ritornando subito a... Ah, ok, allora ascolti a Uranio da oggi, no? Ok, tu allora basso il segnale per qua, la radio è complessiva, però la radio va bene, il segnale è basso, ok, il segnale di lungo sta qua, i radio arrivano a radio in su, ok, perfetto, va bene, a te cambio, vedo un po' che sta arrivando lì, che non so, la funzione di regolazione, a te cambio. Come mi ascolti, Uranio, di segnale? Qua sta arrivando con il segnale di 6, di 6 capi da 25, ma te avete 5. Campa, io come ti arrivo oggi, allora? Ok, tu circa un segnale di 5-6 e una di 5-6. Campa, già va bene, va. Ah, sta arrivando tutto bene qua. Ok, perfetto, benissimo. Io però non ci sono soltanto solo fare due, fare un popolino. Ciao Orario, ci sentiamo, dai, buona serata e buona continuazione, avanti anche tu. Ehi K, saluto Orario, ci sentiamo, buona serata e buon tutto. Arriva un Santiago di 7-8 e la radio è 5 Uranio, no, arriva abbastanza bene, arriva in questa posizione. Qua è 9 Uranio, arriva 9, non so con quanti watt stia uscendo, però arriva 9. Sì, all'incirca se mi inchivimi, 7-8, vabbè io magari non lo so, sono un pochettino più coperto. C'è 8 proprio abbondante, capito? Vieni, l'antenna sul tetto c'è adesso? Ma sempre un'antenna piccolina adesso o una grande? Sì, fai da 9.15 a Santiago 7. Kappa. Va bene, va bene. Comunque ho visto anche dei segnali, un segnale un po' più forte. Sì, o non ce l'hai accordata bene con l'antenna, perché a volte fai passaggi da 9 a 9.15 e a volte fai passaggi 9.15, 9.5 e 9.20 addirittura. Ehi, anche com'è così? L'ho notato da prima, te lo volevo dire. Capito? Vai a volte vai anche a 9.20 pieno e poi te ne vai a 9.10. C'è una cosina che non quadra. Ma che spezzone in battibella? Cioè, perché è strano, eh. Magari lo sta tirando il vento, ma l'hai curato tutto bene, sì. Vedi, ti conviene usare il tester e controllare. Questo passaggio è sceso a 9.5, il passaggio che stavamo volando prima era 9.15, 9.18, poi tornava a scena, c'è una cosina da rivedere lì. Questa bene sta andando già, vabbè ancora devo scaldare un po'. Già sta andando bene, c'è sempre lo stesso segnale. Io ho cambiato il cavo, ma non vedo nessuna differenza, non ho notato nessuna differenza, ho messo l'H155. Invece in recensione dovresti trovare qualcosina in più, capito? Non c'è proprio la trasmissione, ma in perdita, capito? E come stazionarie, sempre uguale a prima, sì. No, le stazionarie le abbiamo misurate con l'apparecchio che mi ha venduto tu. E quindi c'ha più watt quello lì e ti dà 1,1, 1,2. Se non gli metto gli altri apparecchi come il gas e gli altri apparecchi sono sempre uguali, sono sempre 1,1. Cappa, e adesso perché te ne sei sceso a 9, cosa hai fatto? Io? E allora chi io? A 9 sei sceso? Ma non lo so, io non ho toccato nulla. Sì, bene, vai. Guarda, 1, 2, 3, prova. Sta andando giusto. Allora, adesso fai 9.15 a picchi di 25. E la base è 2. E minchia, adesso pure qua è... pure qua è cambiato dal giorno alla notte. Cazzo. No, ma adesso lo vedo il strumento, sta oscillando, sta andando a positivo bene bene. Allora quel caso è solo dal consenso l'accordatore, non ha accordato bene. Però ha girato qua. 9.20 qua sì, vedi. Ti ha chiamato i segnali? Sì, sì, riguardati tutto lì, vedi. C'è il problema da lì agli altri passaggi, capito? E cazzo, cavalli, la base è sei quasi sul 30. Ma pure io che ha ciambato, Sta facendo un attimo, mi sono rendendo 8.5. Sta come un niente, va. Chi vuole lui ha fatto risolvere il problema, va, ciamba che sospetto. Ha giambato dal giorno alla notte, è cambiato. Massimiliano, io come sono di segnale? 9 ancora? Sì, 6, 9, 5. Boh, non lo so. Non lo so cosa sia successo. Mi stanno mancando i picchi di modulazione, perché prima è 9.15. Qua è 9.20, ma non noto che... Quanti watt stai dando già? Io 9 passo. Boh, sei 9.20. Ma te che... ha cambiato qualcosa, bene Gianni, guarda un po', io l'ho visto che si è abbassato un pelo, prova a vedere, a vedere come sta arrivando, se non si è succedendo di prima. 9.5 positivo. Fai come avevi tu. Ma anche qui era 9.5, però col picchio di 9.15, comunque, va bene, va. No, qua mi sembra a posto, non lo so, forse perché sono più vicino, non lo so, qua mi sembra a posto. Beh, comunque Beni, se alla fine stazionarie non ne hai su quell'antenna lì che sto usando adesso, che buono un commutatore che passi attraverso l'accordatore, il wattmetro, un commutatore, sai, di all'altra radio che devi usare. Vabbè. Perché prima quando ti sono stato tutto ho trovato la RAM 48 con un altro accordatore e mi dava 1,6 di stazionale. Ma 1,6 è un bel. Vabbè, l'ho fatta raccolta, l'ho portata qua sotto, era 1,5, accordato era 1,1. E c'è una colantena, deve dare 1,1 qui, se c'è la Lucca Master deve dare 1,1. Ma tu sei così adesso, vedi, così come sei adesso in alto. Non ho capito. Adesso, a quanto ce li hai così messe? Con l'antenna messa in alto così, quanto sono? Messo in alto, non lo so, adesso, quando l'ho accordato era quello lì, 1,6, e adesso è diretta e ci avrò 1,6, l'accordatore l'ho attaccato, sommato in la, come si dice, l'antenna c'è la diretta adesso, il baracchino. E ora non stanno bene con l'antenna qui. Ascolta, però ti sei abbassato di nuovo. Mi sono abbassato di nuovo? Negativo Massimiliano, qua è a posto. Io al tanto mi sono Massimiliano. Non stanno modulando, c'è cioè 9,15. Qua non ho notato nessuna differenza. Sì, vabbè, ma io ce l'ho attaccato. Se l'avevo notato, l'avevo notato anch'io, mi c'era parlato più di Demme che c'era lontano. Cioè, qua Santiago, io sto sempre guardando, Santiago 7-8 era, e Santiago 8 è sempre, capito? Se non mi c'era parlato a 5, a 6, comunque è una mezz'onda, non è una 5-8, non è mezz'onda questa. Ma va bene comunque, va bene. Se si riusciva a portarla un pochino più bassa come stazionaria, perché 1,5 insomma non è che sia proprio, cioè giusto fare qualche passaggio lì già va bene, se riusciva a portarle almeno a 1,2, 1,3, so. Sì, adesso infatti dobbiamo rivedere meglio, perché c'è un regolatore, cosa, ma non so se viene in Lucca, ma guarda con lo strumento, la tagliamo bene, e boh. Infatti, ma perché non te fai? È troppo lunga la fare una cicottata. Ma signora, era lunghissima, ce l'ha preso, ma è una barata costante, la roba di costante, sono, ma è una barata. Sì, vabbè, adesso già le sta facendo diverse, va. Quelle magari erano le prime. Vabbè, ma comunque con l'antenna, anche se con le costante, va bene. Sì, sì, mio figlio, adesso lo stato bisognerebbe allineare, vabbè, ritoccare le cose. E poi, vabbè, a me non andava. Ho guadagnato il ricettone tantissimo, prima non più nessuno, da vedere anche il mio panore e cose. Sì, ma infatti, va bene. Sai che tu non, sul tetto della polimetra la fa cosa, no? Come ti sto arrivando io da te, Benito? No, sono signora, non posso metterla da sul tetto, perché non ha nessun blocco di uscita, bisogna che lo letto dello stare, non so più. Mando, Santiago 8, così dico. Già va bene, da. Sono rientrato, scusate per l'assenza. No, non c'è problema, tutti. Ma vanno bene anche senza il tempo, senza problemi. Ok, correti per me. Che credi che mi preoccupo? Invece dall'altra parte faccio altro. Devi avere sempre la risposta pronta, qualche cosa. Mamma mia, io sta attento perché si fa vedere oggi. Alla Bex. Volevo sentire a Franco, poc'anzi l'ho sentito, ma c'è Franco là, disturbando televisori. Sì, anche con l'omologato disturba. Ma allora, guarda, io ho avuto lo stesso problema, però con usando questa radio qua, in casa mia, ho cambiato il cavo dell'antenna, perché io lo stesso ho l'antenna centralizzata, ho cambiato solo il cavo dell'antenna e ho tolto tutte le magagne che c'erano. Lui, vabbè, non so. Lui sta pensando che sia troppo alto l'amplificatore, vorrebbe abbassare l'amplificatore dell'antenna TV. Sì, mi ha chiamato ieri sera al telefono, abbiamo parlato, ci abbiamo fatto una chiacchierata. Non mi ha anche detto che l'antenna sua vede benissimo l'onde d'oro, quindi non c'è bisogno di avere l'amplificatore tutta maletta. Ciao. Me l'ha detto anche a me il tecnico che è venuto a cambiare l'antenna qua, cosa ci avete a fare? 7 minuti che c'è la manetta, abbassalo. Vediamo un po' come vedere la TV, però non ce l'ho bisogno. Vabbè, io ce l'ho perché non lo vedo quanto euro, sono in una zona di campagna, ho tanti alberi, quindi addirittura potrei girare l'antenna, ma adesso non mi ricordo come era la cosa, e puntare per dire verso Sorso anziché Sassari. Bianco per me, vai, che lo preparo a mangiare. Ehi, vai, alto, vai, ciao per il vizio. Ciao, Anto, ciao. Ciao, Anto, ciao. Buona carica, ci sentiamo, ciao ciao. Nessuno a proposito sa cosa è successo qua, non è uscita la voce presso il rifornitore e nel caffè, cos'è? Boh, sì. No, è la prima cosa che sento, cosa? Perché silenzio? No, vabbè, mi hanno mandato un messaggio che sapevo qualche cosa, perché verso le 5 e mezza c'era un sacco di gente che stava guardando oltre la rete, adesso è successo qualche cosa, non so che cosa. Vabbè, domani mi informerò nel caso, se no già uscirà fuori. Ho visto anche sul Facebook, avevano messo che c'era un incidente lì dalla macchina, ma se tu mi tolgo molto la rete non lo so. No, vabbè, cosa me l'ha detto, quindi prendi la ripinta delle cose. Io faccio quello, ho sentito un bel boato, tipo quelli che fanno a Natale, a Capodanno, quelle bombe tipo, come si chiamano, bombe carta. Ah no, però non lo so, non te lo so dire, sì. Sì, vabbè, riesci a pizzo. No, io da qui non ho sentito niente. Neanche io, vabbè, sentito sì, però non ho visto niente, perché non sono uscito per niente oggi. Con questa giornata così, abbiamo mangiato dietro a casa, al parco. E quindi, niente, ero totale relax. Prima farà tu la graviglia, no? Non io, oggi no, oggi ero rimorchio, mio padre e mia madre hanno fatto maledetta al forno. Dovevo fare io all'ospedale, però sono stato a casa alle 11, mi pare che non vi ora. Brava, brava. No, io mi ho fatto una passeggiata dal vero, dopo pranzo. Era vero, al mondo, al mondo. Sono andato in un'altra coppia di amici che hanno la casa di Alghero, meno male mi ha parcheggiato dentro il piazzale della casa di loro e siamo usciti a piedi, ma sembrava una giornata lockdown, ma era lockdown. Per venire a poco di niente, perché la mascherina, altri bel freddo, le spiagge, facendoci il bagno, ma una cosa impressionante. Sì. Aspetta, ti mando un messaggio, Massimiliano. Buonasera, buonasera. Scusate, va, io vado. Un saluto a tutti, Tino, Claudio, Massimiliano e Bombo da Cicare. Grazie a Gianni, ciao a tutti. E stai nascando, bene. Cazzo, sì, una vita è un piccolo grillo, per lì. Ahia, avevo mangiato il mio... Ho tirato proprio il mare. Buonasera, vabbè, sindaco di Portatone, ciao Bini, un abbraccio, grazie per averci scelto, buon fine domenica e buon tutto alle prossime, avanti Eugenio, buonasera a tutti, Claudio Sparviero, dall'altura di Carbonazzi, ancora per poco. Via Eugenio, via Eugenio! Eugenio, Eugenio. Noi stiamo benissimo, ma sono sicuro che stai meglio tu. Ma ho sentito Massimiliano il bulldozer, vero? Via, qua sono, ho un tratto da boh circa un quarto d'ora, va più o meno. E oggi? Ma cos'è cambiato? L'antenna? Santiago 7 sta arrivando qua. Non lo ricordo, forse 5. E io come ti sta arrivando il segnale? 1, 2, 3, 4, 5. Io ho una tabella di marcia e qua c'è scritto Eugenio Porto Torres, Santiago 8, ma se ne vedi Santiago 7 però. cosa aspetta qua. L'unico che ho, perché non mi dirà che non apparecchio? Io sono di là dove ho due tratti, non mi dirà.